Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Che bello riprendere a viaggiare nel treno, passate le feste, tolto questo clima natalizio, capodannesco, di festività, in cui la gente viaggia con grandi bagagli, con grandi pacchi, con pacchetti fioriti, infiocchettati, verso qualcosa che dovrebbe dar loro felicità, il ritrovare persone da cui si è legati da un affetto, da un'amicizia, una frequentazione, da un obbligo familiare, da un obbligo sociale. Oggi finalmente i treni ricominciano ad essere pieni di persone che viaggiano soltanto, vanno da qualche parte senza che mi domandi dove vadano, che facciano, e non hanno addosso quel clima che per un verso inquieto, per un verso sembra appagato, delle persone che vanno in un posto dove pensano che dovrebbero comunque celebrare un sogno, un immaginario, uno stereotipo di vita felice, di vita serena, di riconoscimento di un'aura diversa a un periodo dell'anno. E io riconosco in realtà aure diverse agli esseri umani, non ai momenti del calendario, e un'aura diversa rispetto a ogni altro viaggiatore alla ragazza che sta seduta di fronte a me. Si capisce che è un artista, dici, da cosa lo capisci? L'artista lo riconosce da come si veste. Non c'è un vestirsi d'artista, sarebbe pacchiana una persona che si mette abiti eccentrici fingendosi artista. Si vede l'abito pacchiano, l'eccentricità cercata rispetto alla differenza, quella sorta di trascuratezza che in realtà è una ricerca, da quella sorta di fuori moda che in realtà è un prevenire le mode, da quella sorta di fuori taglia che in realtà è un volere accondiscendere a un modello fisico dato da stereotipi. E la fantastica ragazza di fronte a me è tutto questo messo assieme. Che sei un artista ti si legge in faccia, sbaglio? Sì. Beh sì, l'artista si nota, ha un alone intorno. Che tipo di arte hai in tasca? Che fai? Ah, io faccio la cantante, attrice, arte terapeuta. Arte terapeuta che vuol dire? Sì sì, sono arte terapeuta. Cioè curi le persone con l'arte? Mm-mm. E qual è l'arte per curare? Però non sono ancora riuscita a curarmi, quindi... Ah, curare te stessa, non gli no, altri? No, anche gli altri posso. Fammi un esempio, io adesso ho mal di gola, senti come parlo male. Mm-hmm. E cosa potresti farmi di artistico per la mia gola? Di artistico potrei intanto farti... una sorta di training, quindi che dovrei fare? Ti faccio chiudere gli occhi, ti faccio fare un percorso interiore per visualizzare le tue corde vocali e cercare poi di curarle. Cioè mi devi mettere un attrezzo in bocca per guardare le corde vocali? Te lo devi immaginare, se lo immagini esiste. Ah, figurarmi un grande cannocchiale che mi entra in gola e vedo le corde vocali. Mm-hmm. Anche. E vedo le lesioni. Le puoi vedere, le puoi curare. Le tumefazioni. Io così le ho curate. Beh, finché la gola si può fare. Beh, certo. C'hai sì mal di fegato, che mi fai? Mi vedi dentro il fegato? Ma che scherzi, io ho curato la colite. Cioè, la colite come? Perché devi la vedere dov'è. Beh, qua il mal di pancia, facciamo esattamente conto, Quando tu hai una colite è anche un mal di schiena di solito, che corrisponde. Sì. E quindi tu lavori sul mal di schiena. Lavori come? Massaggi, cose? Lavori, sì, cerca. Anche qui è tutto training. No, perché io sto sempre in treno, tu capisci che ho dei problemi notevoli. Esatto. Di postura, ad esempio. Si lavora. Ma dov'è l'arte in questo? Quello che fa un fisioterapeuta? No. non ti manipola l'arte terapeuta. Ma tu manipoli quindi? No. Metti le mani addosso? No, no. Niente. Posso, posso giusto sentire se tu mi permetti di toccarti. Ma no, dei poteri hai? Come? Hai dei poteri? No, non ho poteri. E dove si impara quest'arte? Beh, no, quest'arte io ho fatto un master di 3 anni. Un master di arte terapia? Arti terapia ed orientamento psicofisiologico. Ah, oh, figata. Ma sì. C'è gente che viene da te e ti paga per questo? No, sono io che non ho... Non lo faccio, cioè lo faccio per gli amici. Beh, però qualcuno marpione si fa pagare, cioè, dai. No, no, ma io non mi sono mai fatto pagare. No, tu no, chiaro, lo fai. No, io non lo faccio perché non essendo psicologa avrei bisogno di uno psicologo accanto. Tu hai una ricerca, ho capito questo, sì, lo fai una così. Una ricerca che ho... Infatti ho fatto i master pagando e per non farci per niente. Ma a me piacerebbe però. È bellissimo. Io pensavo a arte terapia, ne so, mi dipingevi il corpo, mi cantavi nelle orecchie. Ah, vedi che ci sono cose più. Sì, beh, dimmele, sì. No? Dalla musicoterapia, dansaterapia. Cioè, mi balli sulla panza perché mi fa male. No, lo fai tu, mica lo faccio io. Ballo sulla mia pancia. Devi come essere faccio? Attivo tu. Balli sulla tua pancia, sì. Vabbè, ho capito, sono queste cose che alla gente piacciono tanto, però dai. Ah, però non ci credono fondamentalmente. Ma la sì, oggi credono più alla medicina alternativa. Oggi uno c'ha il mal di pancia, mica va dal dottore. Ma io sono sicura che questa sarà la medicina del futuro. E infatti morirà un sacco di gente, esatto. Sarà meglio per tutti. Stanno morendo tutti, quindi. Beh, siamo sovrappopolati, quindi. Vabbè, l'arte terapia, ho capito, è un'attività collaterale, un hobby, non è il vero mestiere. Non è il vero mestiere. Cioè, non ci mangi con l'arte terapia. No, non ci mangio, ma neanche con l'altro che faccio non ci mangio. Non mangi praticamente. Ma no. Dal punto di vista artistico, lasciamo perdere l'arte terapia, ho capito che è un divertimento. Che allora, però ti potrebbe far svoltare, trovi qualche soggetto. Ma in effetti. Mi racconti due cazzate, dai, ti guarisco con il tocco della voce, così è svoltato. Ma ci credo tantissimo in questa vabbè, cosa. Vabbè, ci devi credere te, se non ci credi te possono crederci gli altri. No, è logico che tu ci vabbè, devi vabbè, a me m'hanno su tante cose. Ma te t'hanno guarito con l'arte terapia? Guarito no, ma m'hanno aiutato. Dimmi una terapia che ti hanno applicato, se è stata meglio. Ma sembra una stupidaggine, ma no. Riprendo l'ascensore. Ah, prima non salivi nell'ascensore? No, perché soffro di claustrofobia e delle cose sono state... T'hanno tolto la claustrofobia? Sì. E qual era? Non tolta, ma l'ascensore lo riprendo, già mi sembra tanto. Perché ha questo prendo problema? Prendo l'aereo. E per toglierlo cosa hai fatto? E, oltre a... Se puoi dimmi cose pratiche, non immagini. No, guarda, una cosa pratica è... quando sei di fronte a un ascensore che non conosci, soprattutto quelli magari... Ti presenti, buongiorno, sono... È vero. Sì. Inizi, sì, lo chiami l'ascensore. Ti dai la mano. No, pigi il pulsante, lui sale, tu lo apri. E se sta sopra scende però. O scende. Vabbè. Se non ti va di... entri un attimo, lo guardi, se non ti senti a tuo agio riesci. E se c'è uno che aspetta dentro ti dà un... Dicevo, si sbrigo dentro fuori. Aspetterà, via. Tu suoni, chiami un ascensore, la gente è indaffarata in un'ora di punta, lo trovi dentro tre con la valigetta in mano e il telefonino, una fretta boia. No, li lascio andare. Entri, dice scusi, io devo conoscere l'ascensore, vuole entrare. No, lo lascio andare e quando è vuoto mi presento. Vabbè, ti presenti. Quando sei sola in quel momento, che sei a metà nella soglia, mezza dentro, mezza fuori, come fai a conoscerlo? Gli dai una carezza? Sì, lo tocchi. Lo tocchi? Mm-hmm. Il contatto è tutto. E poi dopo che succede? E poi dopo se vedi che ti prende male esci. Ah, e pian piano poi fai un piano alla volta. Quali ascensori ti fanno più paura? Quelli normali chiusi o quelli nei palazzi tipo inizi 900 che ce ne no, sono no, quartieri quelli chiusi, quelli di adesso non mi piacciono. Io abito e ho uno studio in ascensori con la gabbietta. Tu non ci saliresti mai. Preferisco la gabbietta. Aperti, preferisco quelli vetri. Aperti, sì. Però sì. Tremano tutti su un ascensore. Ah, va bene, quello va bene. Non mi piace essere chiusa senza nessun tipo di... Non dovresti mai venire in ascensore con me. Io quando sto in ascensore con qualcuno che mi dice ho la claustrofobia, metto a saltare. Ma cioè, non mi fa paura il movimento dell'ascensore. Mi fa paura... Che si fermi. Vabbè, è la cosa più semplice del mondo. C'è un pulsante, pigi, ti risponde uno e lo fa scendere automaticamente. Mm-hmm. Il treno va. Vabbè, non ho mai sentito uno che muore di fame dentro l'ascensore. Ma non morire di fame, la claustrofobia è un'altra cosa. Cioè, ti prende un attacco di panico. Pensi che ti finisce l'aria e rimani seppellito. Sì, ma l'attacco di panico è questo. Pensi di morire, in realtà. Senti, non ma hai lasciato le tue ultime volontà che se muori ti trapassino il cuore con un paletto? Perché pensa a risvegliarsi dentro la bara. Certo che ho lasciato nel mio portafogli. Prosito, mettetevi devono un paletto. Cremare. A cremare subito. Subito. Beh, certo, anche svegliarsi dentro il forno crematorio non è che darà gusto. No, vabbè, certo. Ecco, l'istante ti svegli, e quando comincia a sentire un po' di caldino ti svegli. Ma infatti ho scoperto che... Meglio il paletto prima. Quando ho deciso, ho scoperto che in realtà in una bara ti dovranno mettere, per forza. E quello è il brutto. Eh sì, perché non è che ti cremano subito, non è dopo una settimana. No, ti cremano quasi subito. No, eh sì, a Roma c'è la fila, hai voglia. No. Vabbè, vabbè, due giorni. Ti faccio cremare in una città più piccola. Sta due giorni dentro una bara. No, dovresti dire come ultima, cioè che tu ti bevi un sacco di benzina quando stai per morire, ma dice voglio fumare l'ultima sigaretta e ti autocremi. Pensa che tristezza, non fumo. Allora è un casino. Sono disperata. No, guarda, di solito la tradizione dice questo, chi ha paura di svegliarsi nella bara, accade. La sai, no, tutti hanno un prete, un frate, un domenicano che ti dice noi che resumiamo sempre le tombe dei confratelli ti troviamo sempre con le mani mangiate, che si mangiano le mani e che si sveglia, oppure con tutte le graffe delle unghie sulla bara. È per quello che non ho amici preti. Sì, ma ti dicono sempre questa storia, capito? C'è sempre uno che racconta una storia di resumazioni terribili, con le mani mangiate, con scritto sono vivo dentro la bara, sentono i botti di notte. Quindi succede, ogni tanto succede, ci sta. Sì, sì, ma è successo, è vero. Ma allora uno dovrebbe dire, lasciare, portarti sempre dentro un bel paletto di ferro acuminato, ti infilano un paletto nel cuore, muori di sicuro. Ma poi dopo ti cremano, ti fanno quello che voglio, non è meglio così? Ma anche sì, l'importante è non rimanere chiusi nella barra e svegliarsi. Pensa, barra chiusa è brutta. È terribile, no ragazzi, è una c'è cosa proprio terribile. Pochi centimetri lì. Pensa, sì, il treno deraglia dentro una galleria, il vagone diventa come una bara. È uguale, buio, tutto buio, non ti fa paura? Guarda, mi fa paura sotto una galleria il treno, se si ferma. Cioè, è successo. È una gigantesca bara. È una cosa terribile, perché poi è intorno delle persone che non ti conoscono e vedono possono che pian piano tu ti inizi a muovere, ti spogli, era un freddo. Ti spogli? Perché sì, sì, è perché con un attacco di panico la prima cosa che fai è cerchi di toglierti... Ecco perché sto cercando di indurti al panico in questo momento. E togli... Prima ho tolto la sciarpa. Ah, perché ti spogli quando c'è il panico? Sono rimasta in canottierina... E che più roba togli, tu rimani in mutande e stai meglio. Era febbraio. E stai meglio? Sì, stai meglio perché sono l'attacco di panico ha un apice a un certo punto. Quindi viene da sudare queste cose qua. Certo, sì. Tachicardia, sudi. E avevo vicino delle persone che mi guardavano in un modo... diciamo, questa è pazza. Però può essere anche un aspetto performativo, no? Beh, diventi tutta rossa. Dove stai andando adesso? Di un itinerario? Adesso proprio così così. Alla spicciola, ho sì. Traslocato da poco. Hai cambiato casa? Andare, sì, ho cambiato casa e devo andare a. È stato doloroso? Cambiare casa? Sì. Voglio sapere l'indirizzo di casa tua. No, è stato liberatorio perché sono andata via di casa per un grave problema. Cioè, hai lasciato lì una persona assieme al mobilio? L'ho lasciata sotto, era una persona che mi ha aggredito e sono scappata. Cioè vivevi con un energumeno? No, lui era di un'altra casa. Ah, un vicino cattivo? Sì. E sarà accanito con te? Sì, Ma stava sotto o sopra? Sotto. Quindi camminavi con i tacchi, le solite cose per cui si imbestialiscono i vicini? Assolutamente no, i tacchi li ho messi solo per questa occasione in treno. Quindi a casa tu non eri rumorosa? No. E perché ce l'aveva con te? Non lo so, lui so che ha dei grossi problemi. Ma vive solo? Vive solo. Quindi il tipico maniaco da aveva condominio. Aveva una compagna. E l'ha uccisa? No, non l'ha uccisa, credo che lei è lo scappata. Abbia lasciato, però se tanto mi dà tanto. Ti dico solo che in una mattina, mi ricordo, era il 7 ottobre. Ma com'è nato il rapporto traumatico con questo vicino? Non è nato, io non do confidenza. E quindi lui, ma come t'ha aggredito? Lui mi ha staccato la corrente, è andato sotto, ha staccato la corrente del mio interno. Ah, è una cosa da serial killer. Sì, mi ha bussato. E ho chiesto chi fosse e lui con accento romanesco che è nata via corrente. Ho detto questo è un vicino di casa. Ma l'hai denunciato, spero? Sì, l'ho denunciato, ma non possono fare niente. Perché io ho aperto la porta e lui si è senza catena. Ma sei ingenuo. No. Ah, ma tu pensavi che era uno interessato per te? Che era il vicino di casa perché era andata via la corrente e lui me l'ha staccata. Quindi è un espediente per entrare a casa tua. Tu l'hai fatto entrare? Ho aperto la porta, lui si è coperto il volto, è stato 5 secondi in tutto, neanche. Si è coperto il volto, si è avventato sulla porta. Io non so come ho fatto, devo dire la verità. L'hai richiusa? Sono urlando come una pazza. La situazione da Shining, terribile. Sì, per fortuna c'era una persona con me in casa che è arrivata e in due siamo riusciti a buttarlo fuori. stato l'unico episodio? No. E dopodiché, vabbè, ho chiamato la polizia, sono arrivati, abbiamo riconosciuto gli indumenti, non hanno potuto fare niente. Ma non è possibile, è un'aggressione, scusa. Sì, esatto, è un'aggressione, però lui non è riuscito ad entrare in casa e io ho aperto la porta, questa è la legge italiana. Ma è una cosa assurda, uno tenta di aggredirti, non gli hanno manco identificato, sì, quello sì. Ma certo, io l'ho denunciato, ma tanto ancora la denuncia è là. Beh, minacce, violenza personale, cioè sono... Niente. Cioè, sì, ancora dobbiamo sentire il PM. Hai capito il movente? Pura irrazionalità. Io credo, guarda, credo, non lo so, perché potevano essere tre cose fondamentalmente. E dimmene tutte e tre. Una: rapina, violenza. A un certo punto, quando ti rendi conto. Sì, ma rapina, scusa, nessuno rapina il vicino di casa sotto, manco un pazzo, abita sopra. È un atto di follia pura, di violenza. Credo sia una violenza contro una donna. Gli stavi sulle palle perché era una donna? Non lo so. Ma un motivo, ce gli avrei fatto qualcosa? Assolutamente no. Non l'avrei salutato? Non... No. Che cosa, che vuol dire? Questo è un... ma è una follia pura. Beh. Follia. E lui come si è giustificato quando l'hanno interrogato? Che non era lui. È la mia parola contro la sua. Quindi è cambiato subito caso. Quando le donne muoiono, sì, sì, e ne muoiono tante. È chiaro, questo lo so. È per questo, a me è andata bene. Potrevi essere una delle tante, sì, sulle episodi di cronaca. Sì, potevo essere una. Magari manco lo trovavano che era il vicino. Esatto, perché poi vuole ammazzarti per pura cattiveria. Poi dopo 20 giorni sono entrati dei ladri dentro casa con una facilità pazzesca e hanno rubato delle cose, tra cui un CD di mie foto. Quindi era proprio una persecuzione. Forse gli piacevi nella sua irrazionalità, sai, sono uomini che non si rassegnano. Penso di essere onnipotenti, pensano che... Vabbè, non lo so perché l'abbia fatto, solo che l'ha fatto e la mia vita è cambiata in 30 secondi. Adesso spero che tu non abbia lasciato tracce dove sei andata a abitare. Assolutamente no. Che nessuno lo sappia nel condominio. Non lo sa nessuno. Fregate nella posta di tutto. Ma via, basta. Sì, non lo sa nessuno. Beh, tu essendo però donna di spettacolo, ti avrà visto magari a teatro qualche volta. Ma non credo che sia una persona che frequenti i teatri. Solo è ribella e secondo lui dovevi appartenere, di fine. Ha saltato tutte le fasi intermedie. Credo che volesse solo comunque farmi del male, e ci è riuscito comunque. Anche se non è riuscito a farmelo fisicamente. No, perché è la premeditazione che mi spaventa, staccare la corrente. Ha deciso, lui aveva deciso di fare questo. E comunque non c'è tutela. In un condominio alle 11:40 del mattino non ha sentito niente nessuno. Questo mi spaventa di più. I tuoi vicini non ti hanno mai detto nulla su questa persona. Con certo, gli altri, ora hanno paura loro. Con gli altri è sempre stato completamente normale. Ma lui è molto cordiale. Queste persone qui... Lui è un vero criminale a questo punto di vista, con la lucidità di avere una doppia personalità. Sì, sì. Beh, questo ti fa spaventa. Passare dalla porta, ti apre il portone. Prego, ti dice. Beh, il vero serial killer così. Adesso non voglio criminalizzare persone cui non so nulla, però il quadro è spaventoso. È spaventoso, sì. Dovresti portarla in teatro questa cosa, ti aiuterebbe a elaborarla. E poi dovrò elaborarla ancora di più, perché non l'ho superata. Credo che siano cose che poi non si superano più. Ma è difficilissimo, scherzi, sì. Soprattutto diventi totalmente sospettosa verso ogni uomo. Pensi che dietro ogni uomo io ho persone che conosco che sono state molto picchiate dai loro partner. E se anche solamente ti vedono un pochino alterato, un po' nervoso, c'ho pure che tu mi picchi. Come mai mi picchiai? Non mi hai picchiato nessuno. Perché sanno che c'è un'escalation immediata che potrebbe accadere. Vado in giro con lo spruzzino al peperoncino. Sì, serve poco però. Infatti mi hanno anche detto, mi raccomando signorina, lo prenda in farmacia, sì. Perché in armeria può passare guai. Beh sì, perché è un'arma a tutti gli effetti. Esatto. E quindi... Io avrei passato guai. Se uno è energumeno, molto energumeno, devi colpirlo bene, perché sennò lo sarà bianco. Ma infatti, ma se una persona decide di cambiarti la vita, riesce. Beh, in bene e in male, Più facile in male in questo caso. Esatto. Va bene. E adesso nella casa nuova come ti trovi? Più guardinga, naturalmente. Hai messo una porta blindata? Sì, c'è tutto. Telecamere? Sento al sicuro. Sai, c'è un servizio con la telecamera che risponde sempre una persona. L'hai messo quello? Sì. Adesso metteremo anche quello. Sì, quello ti conviene. Sì. Stai tranquillo. Ma vivi con qualcuno? Sì, sì, io condivido l'appartamento. Ah, vabbè, allora. Vivere a Roma da sola è impossibile economicamente, quindi... Va bene, cara, ti lascio al tuo viaggio, spero di rincontrarti presto nel treno. Lo spero anch'io. Ciao, ciao. Ciao. Il treno va. Ogni tanto mi capita in treno di viaggiare assieme a persone che viaggiano con animali. Nella migliore delle ipotesi li portano dentro le regolamentari gabbiette per trasportare gli animali, i trasportini. C'è sempre un cagnolino e un gattino dentro il trasportino. Ma dico nella migliore delle ipotesi, perché nella peggiore delle ipotesi richiamano l'attenzione dei loro vicini di scompartimento sulla tenerezza del cucciolotto che portano dentro il trasportino. E c'è sempre qualcuno che ha un cane o un gatto a casa che deve improvvisamente celebrare il vincolo di fratellanza che lo lega da quella persona. Guardate, non parlo a una persona che detesta gli animali o detesta gli animalisti, non mi importa, sono nato e vissuto assieme agli animali, ho avuto anche animali in casa fino a un certo punto della mia vita. Detesto l'ostentazione dell'animale, come una volta o come in contemporanea si possono ostentare i figli come fosse un gran privilegio averli fatti, come se fossero dei gioielli, come se tutti dovessero rendersi conto di quanto sia sprizzante e cosmica la tua gioia nell'aver vicino un cucciolo, se esso ha due o quattro zampe. Beh, la signora accanto a me, anche lei un cane, e anche lei sembra desiderosa e smaniosa che qualcuno le rivolga la parola richiamando l'attenzione sul suo tesorino che tiene in braccio. È impossibile viaggiare in treno senza un cane dietro? Beh, no, non è possibile viaggiare senza il cane. Però ne senti bisogno. Senza il cane, ogni tanto. Però quando posso portarmeli dietro, sì, perché no? Ma non soffre in treno il cane, non sta meglio, no? Allora, dipende dal cane, perché i cani non sono mica tutti uguali. Nel senso che bisogna che siano abituati a riconoscere il tuo cane, devi essere sicuro che il tuo cane sia non soltanto non soffra lui, ma non crei disturbo agli altri. E tutti, beh, un po' di fiatella si sente, onestamente. Chi non è abituato, un po' la fiatella del cane la sente. Ma no, il mio, i miei sono scherzi, sono meglio di me. Ma tu non la senti più? Alimentati benissimo. Ma tu non li senti più? Ma l'odore di cane. Normalmente chi vive, tu vivi con gli animali in maniera promiscua, quanti ne hai di animali per casa? Allora io ho due cani, due gatti e due gerbilli. Il gerbillo sono i cricetti mongoli, sono i cricetti con la coda che invece di arrampicarsi scavano. E ma cosa scavano a casa tua, al pavimento? No, gli ho fatto un terrario con la segatura, tubi, in realtà sono tronchi di bambù che loro amano farsi tunnel sotterraneo. E quelli scavano dentro casa? Beh, a casa tua è una giungla quindi. No, perché è una casa normale, un appartamento normale, ovviamente richiede manutenzione, un po' più di lavoro, cioè sempre l'aspirapolvere. Ma in quanti esseri umani vivete in quella casa? Due. Qui tu, poi? Io e il mio compagno. Te e il tuo compagno, due cani? Due cani, due gatti. Due gatti e due gerbilli. Sì, c'era anche la coniglia che ho trovato abbandonata. E te la sei mangiata? No, il mio padre secondo me ci sta facendo molti pensieri, perché per motivi di spazio l'ho portata dai miei, che hanno una splendida conigliera, quindi sono Villa Coniglia. E beh, se c'ha la conigliera non è che li tengo lì. Sta guardando con aria un pochino... Scusami, non voglio crearti dolore, ma se tuo padre ha una conigliera non è che la tiene lì come tu tieni i gatti in casa e li tiene per no, aveva la conigliera costruita per il coniglietto nano di mio fratello, siamo tutta una famiglia di... animalari. Ma il coniglio ogni tanto non gli tira il collo, no? No, sai cosa? Sono un po' di settimane che gli sto dicendo, per favore, coprila su due lati con del plexiglass per non che prenda freddo. Invece lui continua un po' a nicchiare, secondo me punta l'ingrasso, perché in un nostro macellaio di fiducia fa un arrotolato di coniglio meraviglioso e ho paura che il buon vecchio Gianni stia facendo i pensieri. Ah, ti sta ingrassando la coniglia per mangiarsi? Ho quel vago sospetto. Ma i gerbilli fanno figli, si accoppiano fra loro? Due maschietti. Due maschi. Fratellini. No, volendo, se prendi una coppia rischi di fartene 90 in un anno. È come i conigli sono i gerbilli? Sì, sì. Conigliano a... Sì, quindi so, è stata mia premura a scegliere nella cucciolata due maschietti onde evitare... non vorrei diventare trisnonna, trisavola. Quindi è un esempio di situazione di poliamore, si direbbe oggi. Due umani, due gerbilli, due cani e due gatti. Diciamo anche una coppia che... gay dei gerbilli, naturalmente. Sono fratelli, non coppia gay. Vabbè, sì, dai. La prurigine, no? No, comunque sono, diciamo che sono una famiglia, io vengo da una famiglia che ha sempre avuto animali. Io a due anni e mia nonna mi perdeva di vista e mi trovava a dormire rannicchiata nella cuccia del cane lupo, perché C'è questo pastore tedesco che mi è femmina, che non aveva ancora affiliato e mi aveva adottato come cucciola, anche con seri rischi tra l'altro per l'incolumità degli altri bambini, perché ero la sua cucciola. Siamo sempre stati abituati a avere in famiglia animali, li considero, non so, un complemento, non sostituiscono. Ma tu vivi in un appartamento in città o in campagna? Una civile taschiera, sì, in città. Quindi i tuoi vicini di casa hanno la gattara, la canara, l'animalara, no? A parte che Villetta Schiera è diverso da un appartamento, perché comunque il mio giardinetto, ovviamente, guarda, avere animali implica anche la premura di non rompere le scatole al prossimo. Sì, ma è un lavoro, mantenere sei animali è un lavoro. È impegnativo. Cioè, è un lavoro di più, chiaro, io ti dico, passo con la vita con l'aspirapolvere in mano, poi... Ma chi te lo fa fare? Scusa, adesso non per dire, ma tu devi pulire i cani, le lettiere dei gatti, le lettiere dei gerbilli, sì. E portare i cani dal tolettatore da ogni tanto, no, dagli una lavatina. No, lavo io e li porto fuori. Li lavi in casa? Li spazzolo quando andiamo in montagna. Li lavi in casa i cani? Sì, sì, sì. Ma non sai che puzza di cane bagnato? Quando lavo i cani in casa, dopo devo lavorare 2 ore di l'isoform per pulire il bagno, sì, è chiaro che è un lavoro. Vabbè, cioè, ma se ti rendi conto che odore di cane bagnato c'è a casa tua quando lavi il cane? Sono degli accorgimenti per cercare di limitare la cosa. Mi rendo conto che magari per un naso ipersensibile o che uno che non ama gli animali, ma non è amare gli animali, uno magari può... ci vediamo al bar fuori. Ma uno può amare gli animali e non gli piace sentire l'odore di animale in casa. Va bene, se uno è particolarmente... per capire, sai. No, ma mi rendo conto, sono scelte e sono... Cioè tu hai trasportato in un ambito cittadino quello che è l'habitat normale di una campagna con animali. Io sono cresciuta non in campagna, in montagna. O in montagna. Sono cresciuta con maiali, galline. Eh sì, ma stavano nel loro habitat, il maialo nella maialaia, la gallina nel pollaio. Sì, il gatto in casa, il cane anche. Ma in casa, in campagna lo sai, in campagna c'è l'odore di porcile, ma fa parte della campagna. In città è un po' diverso. Certo, vivere in città vuol dire dover anche mettere in conto tutta una serie di accorgimenti, sia perché la loro igiene, sia per pulire la casa. Vabbè, diciamo che la tua vita è impegnata per mantenere una casa decente per gli animali che stanno dentro. Diciamo che la mia vita è impegnata a lavorare tante cose, con un po' di organizzazione riesco a gestirli. Poi comunque sono i piatti della bilancia, no? Sul piatto della bilancia c'è questo lavoro in più, anche il costo. Perché insomma, Ma i cani vanno portati fuori almeno 2 volte al giorno. 2 volte al giorno, ma con qualsiasi meteo, vuol dire anche prendersi la pioggia. So bene cosa vuol dire tornare la sera a casa morti di stanchezza, qua fuori la pioggia torrenziale e il cane che ti scalpita, che deve uscire. Gli stivaloni, uscire, certo. E poi sapendo che sarà corta il viaggio, non fa mai la cacca perché dice poi quando la faccio mi porta dentro, quindi tergiversa. I sacchetti, girare sempre con la borsa grande, uno zaino grande perché devi sempre avere, perché sono molto scrupolosa, quindi ho sempre non solo i sacchetti per legge, ma anche l'acqua per sciacquare eventuali pisciatine da sfuggite, le salviette umidificate, no, è un lavoro. Cioè un lavoro, poi ti rendi conto, fai quello che... Raramente una persona farebbe per un essere umano, per degli animali, per passione, non c'è nessun obbligo. Sono premurosa anche con gli esseri umani, è una questione di piatti della bilancia, ti dicevo. Sull'altro piatto che ci metti? E sull'altro piatto cosa c'è? L'affetto, il calore, il fatto che anche quando sei presa male, litighi con un cliente, la giornata storta. Ti prendi un gerbillo, poi ti passa tutto. Insomma, diciamo che ti consola tante volte, torni a casa con le palle girate e comunque avere loro che... Ti dicono una parola giusta e ti fa tornare in armonia. Ti riempiono la giornata, ti fanno compagnia, non chiedono tanto, cioè in realtà è un lavoro. Tu hai detto una parola giusta, non chiedono tanto, perché il rapporto con un essere umano è molto più impegnativo. L'essere umano ogni tanto gli girano le palle, non c'ha voglia, devi conquistarti la sua attenzione. Il cane, per il fatto stesso che lo mantieni e gli dai cibo e attenzioni, ti è grato a vita. Il cane richiede attenzioni, ad esempio per l'addestramento. Io ad esempio la piccola, che ho il cane maschio che è il più buono del mondo, un angelo, non so cosa ho fatto di buono in un'altra vita per un cane. Perché vorrebbe essere anche cattivo, scusa, una che lo lava nella vasca, la bagna, lui si lava lei, e con lo sciampettino gli dà da mangiare, dà da bere, lo porta fuori, lo vuoi anche cattivo? Però ci sono indole, diciamo, ho la piccolina che anche lei è buona, nel senso è affettuosa, eccetera, però viene da un maltrattamento per cui nessuno le ha mai insegnato niente, capito? Cioè è stata trascurata, in età infantile, diciamo, per cui fa disastri, manda scarpe. Eh beh, devi superare il trauma. La mandi gli auricolari dell'iPhoneino LED, dici. A te ti fa ridere, se facesse un figlio lo sbatteresti al muro, il cane ti fa ridere. No, non mi fa ridere, mi fa incavolare parecchio, però a quel punto lì mi tocca lavorare. Casa tua è frequentata da esseri umani? Sì, voglia. Gente viene a cena tranquillamente? Sì, assolutamente sì. Con tutti gli animali, gerbilli, cani, gatti? Sì. Vabbè, ho capito, la tua vita è articolata. Onestamente, l'asse portante della tua vita è il mantenimento felice dei tuoi animali. Sì, che rende felice anche me, perché comunque è un impegno che mi ripaghi, che trovo mi ripaghi. Poi io tra l'altro faccio anche la volontaria e mi occupo di insieme a altre quattro. Ti occupi di cosa? Di? Cerchiamo casa a cagnolini. Vabbè, sempre di animali ti occupi comunque. Sì, nel senso, il classico caso di scuola proprio per noi è muore nonna, famiglia non sa più dove mettere il cagnolino amato da nonna, si aprirebbero le porte del canile. Però questo conferma la tua vita, sia nell'aspetto sì, è una quotidiano. Cosa che mi impegna, è una cosa che vivi per gli animali. Non diciamo vivo se gli animali, ma sono una parte abbastanza importante, sì. Sei in una zona a metà fra l'umanità e fra il mondo animale. No, adoro anche l'umanità, sinceramente, non ho problemi con gli esseri umani, anzi. No, problemi no, ma non è che li hai tanto a cuore quanto hai cuore gli animali, questo no, poco non è ma sicuro. No, è vero, perché guarda che anche aiutare gli animali talvolta significa anche aiutare le persone, perché per esempio nel nostro lavorare come volontari, quando capita, non so, una persona che ama molto il suo cane, che però a cui capitano disgrazie tipo perdere il lavoro, ammalarsi, eccetera. Ora, nel momento che noi gli troviamo un'altra casa al cagnolino, troviamo una sistemazione. Vabbè, vedi, tu preoccupi del cane che muore di fame. Non risolviamo i problemi della vita, ma gli togliamo una preoccupazione. Ma te lo fai perché ti è più a cuore la sopravvivenza felice del cane, non tanto il disgraziato si trova senza lavoro. Non vedo contraddizione nelle due. No, ma non è lineare, non c'è contraddizione. Va benissimo. E poi, tra le altre cose, una precisazione, perché no, il mondo del volontariato animalista viene sempre dipinto come fanatiche talebane vegane e robe simili, no? Perché purtroppo ci sono anche quelle, ma invece non, io per esempio sono onnivora, non sono neanche contraria alla caccia, perché da montanara so che la caccia di selezione, ovviamente mi incazzo se uno spara vicino alle case, ma quello è nel senso civico, non è animalismo. E nel senso, si può avere un atteggiamento di rispetto, di amore per gli animali, che non è in contraddizione con l'essere umano, anzi è di conciliazione. Trovare una maniera di tenere i cani e di riempirsi la vita anche con questa compagnia pelosa, senza che creare disturbo al prossimo. Vabbè, ma il problema maggiore è che il mondo degli umani tolleri la tua predilezione al mondo degli animali. Basta solo capire. Io faccio del mio meglio perché i miei cani, i miei gatti non rompano. Non fai parte di una frangia estremista, dici, no, ti impongo. Ho i miei bei problemi a conviverci, ci baruffo regolarmente. Questo è logico. Gli estremismi non li sopporto in nessun caso. Va bene, in bocca al lupo, volevo solo capire questo, me l'hai chiarito e ti sono molto grato. Al prossimo giro, ciao. Alla prossima. Saluta i gerbilli, ciao. Il treno va. Il momento dell'audiolettera. Chi mi scrive è qualcuno che mi ascolta con attenzione, qualcuno che sa esattamente in cosa si è trasformato in questo spazio, che era uno spazio aperto, uno spazio che io non avevo condizionato, determinato. Ognuno poteva scrivere quello che voleva su qualsiasi argomento, e non so per quale ragione, evidentemente di questo c'è bisogno, c'è un mercato aperto rispetto ai dispensatori di ascolto, rispetto alle donne che cercano un uomo, e questo è diventato lo spazio delle donne che cercano un uomo. Non so perché, non so per quale ragione, non che io mi sia mai sentito persona particolarmente propensa o disposta con strumenti sufficienti per dare delle possibili risposte a donne che cercano uomini. Caro Nicoletti, la figura più presente del tuo programma è quella della donna o ragazza che insegue l'amore o l'uomo per la vita. Una lei che troppo presto e spesso scambia frequentazioni di letto digitali per fidanzamenti. Una figura che tu prendi in giro per la sua ingenuità e persistenza nel non volersi adeguare alle nuove regole del gioco, più ciniche e spietate che mai. Ho 37 anni, sono ovviamente una lei. Da 3 anni vivo all'estero, a Nord Europa. Mi sono trasferita per inseguire un sogno di stabilità lavorativa che per 10 anni in Italia era stato fuori dalla mia portata. Ho lasciato un partner affettuoso ma con diverse aspettative e ambizioni di cui non ero troppo convinta e quindi senza eccessivi rimpianti. All'estero mi sono trovata a navigare in acque sconosciute, con culture e relazioni diverse da quella italiana e avventurandomi nel mare delle conoscenze online. Il risultato? Molti incontri, poche relazioni che non hanno mai avuto seguito oltre i 3 mesi. Mi sono divertita, mi sono sfogata, ho capito qualcosa in più di me stessa. Ho certamente messo in discussione i miei principi e ho visto parti della natura umana a me ignote. Di certo mi sono resa conto di quanto sia difficile innamorarsi e lasciarsi andare dopo una certa età. È un treno, scusate la citazione becera, che è già passato e non torna più. Dopo 2 anni, totalmente scoraggiata e annoiata da questi incontri, ho smesso di cercare questo tipo di rapporti e mi dedico serenamente al lavoro, agli amici e ai miei interessi, senza cercare più nulla. Sento forte, però, più del sesso, il desiderio materno e non mi faccio illusioni di riuscire ad incontrare un uomo con cui a breve possa avere un progetto di famiglia. Se c'è una cosa che mi riconosco è di aver fatto glorioso olocausto di tutti i miei pregiudizi, non essendone poi in realtà mai separato, ma invece che nasconderli, dissimularli, mascherarli o fingere di non averne, ne faccio moneta di scambio con le persone che mi ascoltano. È chiaro che prendo in giro, sbeffeggio, ironizzo sulla costante che ha infarcito questo spazio, di queste donne che cercano sempre l'uomo perfetto, che l'uomo perfetto poi è irraggiungibile, non esiste un ideale perfetto. Ognuno che cerca una persona come complemento alla sua vita sa che tanto più sarà felice questa scelta, tanto più sarà disponibile a scendere a compromessi. Però il campo che va a lambire la nostra ascoltatrice è un campo molto più delicato, perché in realtà il vero spessore, il vero meccanismo che anima il cosiddetto orologio biologico non è quello tanto dell'accoppiamento, non è quello tanto d'avere una figura maschile di riferimento, ma un istinto ben più lontano e ben più primordiale che in realtà abbiamo nel nostro patrimonio genetico da quando siamo nati come esseri umani, che è quello della propagazione della specie. Questa donna che ha molto amato, si è molto divertita, ha molto sperimentato nel campo delle passioni, vuole sperimentare anche la maternità. Perché? Perché la sente come una molla forte, come un bisogno insoffocabile, inarrestabile, quindi non avendo trovato uomini in grado di soddisfare il suo bisogno di maternità, acquista il seme di un uomo e su questo vorrebbe che esprimessi io il mio parere. E poiché l'idea di restare incinta casualmente o tramite l'inganno, gli uomini sono piuttosto ingenui in questo, non mi piace, ho cominciato le pratiche per l'inseminazione artificiale. Che pensi di una scelta di questo tipo? Da una parte c'è l'indipendenza portata all'estremo. Tu incoraggi le donne all'indipendenza emotiva, a stare allerta, a bastare a se stesse e a prendere e usare gli uomini nello stesso modo in cui fanno loro con le donne. Cosa succederà in futuro, quando e se queste tecniche saranno più accessibili e meno tabù? Il concetto stesso di famiglia e di coppia è scardinato fin dal suo fondamento, ossia la fondazione di un nucleo stabile all'interno del quale può avvenire il concepimento. Esisterà ancora la famiglia tra 50 o 100 anni? D'altra parte, questa scelta può anche essere vista come il capriccio di una bambina adulta che si compra il giocattolo che nessuno le ha voluto regalare, ma almeno senza mettere in atto il complesso meccanismo della relazione matrimonio, illudendo un uomo e coinvolgendo famiglie, eccetera, senza illusioni e senza illudere nessuno. Valori e principi evolvono con la tecnologia o il progresso economico. Ad esempio, la verginità è stato un valore fin quando gli anticoncezionali sono stati artigianali e inaffidabili. La parsimonia, il tenere bene le cose, è stato un valore fino a quando riparare le cose è diventato più caro che comprarle nuove. L'unità della coppia è stato un valore finché una delle parti è stata dipendente economicamente. Cerco di avere uno sguardo non giudicante sul mondo e di non fare mai questioni di principio. Certo, quello che sto per fare non è una scelta a cuor leggero. Ciao, Magnolia del Sud. Cara ascoltatrice, se mi ascolti e mi segui in tutte le mie elucubrazioni radiofoniche, sai che non posso che essere d'accordo. Non trovo nulla di singolare, nulla di strano nella tua scelta. Il fatto che una donna possa fare un figlio anche senza collocarlo nella tradizionale forma familiare non lo trovo per niente scandaloso. Vuole allevare un figlio, vuole avere un figlio, vuole forse partorire un figlio perché sente che per lei è importante, ha bisogno, è un bisogno della sua natura, insopprimibile. La donna tuttora, per quanto si sia evoluta, per quanto si sia emancipata, non ovunque e non in qualunque parte del mondo, la donna comunque ha un orologio biologico dentro. La donna è sottoposta a regole. Finché la donna avrà le sue regole, la donna non sarà sregolata. L'uomo sa che di poter essere sregolato. Le regole che si impone sono delle regole di tipo culturale. L'uomo in sé non ha regole biologiche così forti, così insopprimibili, come quella che è appunto la regola mensile delle donne, che ogni mese ricorda, questo ti succede perché non hai partorito, non hai fatto un figlio. E a forza di sentirselo ricordare tutti i mesi, dall'età del menarca fino all'età in cui si pensa di non essere quasi più, se non nella zona liminare della propria epoca feconda, una donna dice, io voglio un figlio. Io vado oltre la sua scelta, trovo una scelta oggi possibile, fattibile, non ci trovo nulla di censurabile, in questo sono totalmente aperto, la scelta di una donna di avere un figlio senza interessarsi chi sia il padre. E oggi in una società civilizzata e tutto sommato benestante, una donna può tranquillamente allevare un figlio anche da sola, se non esiste la figura di riferimento paterna. Nella maggior parte delle famiglie non esiste comunque, e quindi piuttosto avere un fantoccio chiamato padre è meglio non averlo per niente. Ma io profetizzo una società ancora più avanzata, che la donna sarà finalmente sregolata, non avrà più il suo bisogno mensile che sia il campanello che le ricorda deve essere donna. Ci sarà una maniera forse meno viscerale per avere figli, ognuno depositerà in un posto che non conosco e non so quale sia la struttura il proprio materiale genetico necessario a figliare. Quando sarà il momento che vorremmo dei figli, andiamo a prelevare l'esito dell'incontro di spermatozoi e ovuli e sarà un figlio identico a quelli che abbiamo noi, sarà un figlio che nascerà, verrà al mondo, vedrà la luce con lo stesso senso di smarrimento, lo stesso senso di curiosità che hanno oggi tutti i bambini, che hanno avuto tutti i bambini in passato, con alle spalle famiglie solide o padri terribili o madri degenerate o semplicemente un signore che andava in giro a cacciare mentre la madre si preoccupava soltanto di allattarlo e di cucinare per il padre cacciatore.